La nuova Sofia, l'attacco al porto di Tripoli, la guerra per la Libia e per il Mediterraneo. Benvenuti a una nuova puntata. Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci. Le navi dell'Unione Europea pattuglieranno di nuovo il Mar Mediterraneo. Verrà lanciata una nuova missione per garantire il rispetto dell'embargo sulle armi in Libia. Recent development shows that the crisis may spiral out of control. Welcome back to our place of work. Buona giornata e ben ritrovati, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori. Questo è Nessun Luogo è Lontano, il vostro quotidiano osservatorio su tutto ciò che accade al di fuori dei confini italiani. Con me ci sono Antonio Talia, Ilaria Sesana, Giulia Cannizzaro, Valentina Ternullo e Roberta Frisani che regia. 349-238-6666 per domande e commenti. Su che cosa? Beh, la notizia di quest'oggi da un lato è politica, perché dal Consiglio d'Europa è uscita quella che è una bozza della nuova missione Sofia per andare a far rispettare l'embargo in Libia. Parallelamente, le notizie di poco meno di un'ora fa, c'è stato un attacco al porto di Tripoli lanciato dalle milizie di Haftar. È mistero su questo attacco, perché da un lato le milizie di Haftar, tramite il portavoce, dicono: abbiamo colpito una nave turca carica di munizioni e armi destinate proprio ai soldati turchi e i miliziani siriani che stanno combattendo al fianco di al-Serraj. Così la stessa Al-Arabiya, l'emittente saudita, ha detto, citando fonti che avrebbe la stessa Al-Arabiya trovato: abbiamo colpito una nave. E dall'altra parte invece la Reuters, sentendo l'autorità portuale, dice: guardate, è stata colpita soltanto una banchina. Vi faccio vedere una voce raccolta da Antonio Talia pochissimi minuti fa, perché lavorando su fonti aperte, su Google Maps, che cosa abbiamo trovato? Beh, che c'è un hotel proprio di fronte al porto, si chiama Hotel Corinzia. Sentite che cosa ci ha detto il receptionist di questo hotel. No, we only heard the bombing and we saw the smoke, that's it. Abbiamo sentito l'esplosione, abbiamo visto il fumo, ma non abbiamo idea di cosa sia successo. È successo intorno alle 14 ora locale. Abbiamo sentito due esplosioni, poi basta, ma ancora si può vedere il fumo. Aspetto i vostri commenti anche su questo nuovo, gravissimo, se confermato, episodio, perché la mossa di Haftar andrebbe a colpire in qualche modo la linea di approvvigionamento, la linea logistica, quel filo rosso che lega Ankara a Tripoli. I commenti li posso leggere anche su Facebook, Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24, su Twitter, Nessun Luogo 24, ovvero il mio account che è Giampaz. Tra pochissimo apriamo la lunga pagina libica con tanti ospiti, per cui state con noi, ma prima di tutto il termometro internazionale. Ci arriva una notizia da un quadrante che abbiamo recentemente un po' abbandonato, perché in effetti era in stallo. Che cosa? Sostanzialmente il conteggio dei voti. Vi porto in Afghanistan, in particolare a Kabul, dove finalmente la commissione elettorale, dopo, pensate, ben 5 mesi dalla data delle elezioni presidenziali, ha dichiarato che il vincitore, quindi secondo mandato, nuovo, riconfermato presidente, è Ashraf Ghani. Perché questa lungaggine, 5 mesi, alla faccia della lungaggine? Sostanzialmente perché Abdullah, che era il contendente alla poltrona presidenziale, aveva richiesto un nuovo conteggio. E probabilmente ne aveva donde, perché a vedere i dati ufficiali il distacco tra i due è davvero molto molto risicato. Pensate, Ghani è stato rieletto presidente con il 50,64% dei voti. Così battono le agenzie, naturalmente troppo presto per capire se la riconferma di Ghani alla presidenza afghana porterà un beneficio. Quando dico beneficio intendo stabilità e ricadute positive per i cittadini afghani. È utile ricordare che almeno il 50-60% ormai del territorio afghano è in mano ai talebani e le altre milizie. Cercheremo di capire nelle prossime settimane anche le reazioni della società civile afghana e naturalmente ve ne daremo conto. Roberta Frisani, capitolo libico, giù. Tobruk e Sebha sono quasi al collasso, Bengasi se la passa meglio con 9 giorni di capacità di stoccaggio di benzina, 6 giorni di gasolio, 14 di GPL. La produzione di petrolio in Libia è passata da 1,2 milioni di barili al giorno a 110.000. Ma se per la Libia lo sblocco dei porti e la conseguente ripresa della produzione e dell'esportazione di petrolio sarebbe sostanzialmente la fine di un incubo, paradossalmente non sarebbe lo stesso per gli altri competitor internazionali. Come ha riferito molto bene oggi Le Monde, la possibilità di una ripresa della produzione di petrolio in Libia preoccupa i mercati, perché obbligherà gli altri paesi produttori a ridurre la loro offerta per fare spazio al petrolio libico. Insomma, quella affilatissima arma di Haftar sembra un po' spuntata. Allora, come promesso, apriamo la lunga pagina libica. Seguitemi con attenzione perché faremo, come dire, un procedimento, un processo quasi filologico. Partiamo da che cosa? Dalle carte. Dovrei dire non carte, tecnicamente si chiama non paper. Che cos'è? È una bozza programmatica che peraltro abbiamo tra le mani, che è uscita dal Consiglio dell'Unione Europea. Sostanzialmente tutti i paesi, dopo lunghe trattative, si sono messi d'accordo per fare che cosa? Sostituire, dire addio all'operazione militare Sofia, che ultimamente aveva sostanzialmente 5 aerei, tra cui un drone per monitorare le acque di fronte alla Libia, sostituirla con una missione che avrà, pare, 4-6 navi, monitoraggio dall'aria, quindi droni aerei e eventualmente truppe di terra. Perché dico eventualmente? Perché, come hanno riferito molti politici nelle ore successive a questo accordo, le truppe di terra sotto cappello Unione Europea entreranno in territorio libico con tre condizioni che non sono alternative. Da un lato, una risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU, per immaginatevi, c'è la Russia, c'è la possibilità, la potenzialità di un veto, quindi è una condizione piuttosto remota. Un cessate il fuoco, e qua c'è il primo strano paradosso, per cui una forza di interposizione va a interporsi quando c'è già un cessate il fuoco, secondo punto, secondo noi, piuttosto nevralgico, oppure un invito da parte delle stesse forze libiche. Secondo punto che ci preme sottolineare, dove va a posizionarsi? Sostanzialmente va a stressare la parte est, quindi di fronte alla Cirenaica. Fra poco vi farò sentire anche dichiarazioni politiche che spiegano il motivo di questa nuova collocazione. La finalità di questa nuova missione militare di sorveglianza: far rispettare l'embargo delle armi, ma anche il contrabbando di petrolio. Per non far venire il mal di pancia ad Austria e Ungheria, e già vedo qualche messaggio al 349-238-6666 che tiravano in ballo questi due paesi che spesso, come dire, a gamba tesa erano entrate durante le contrattazioni, dicevo, due paesi quelli più restii ad assorbire quote di migranti, si evita proprio di pattugliare la zona del Mediterraneo occidentale da cui transitano i, ormai possiamo dirlo, residuali flussi di migranti che partono dalla Libia. Quindi si cerca di non scontentare nessuno e di non andare a toccare quelle dolenti note dell'eventuale salvataggio dei migranti. Attenzione però, la legge del mare impone comunque che se queste navi dovessero vedere dei barconi in difficoltà dovranno comunque soccorrerli. Carico da 90 se stessimo giocando a briscola. Per evitare ulteriori polemiche e levate di scudi da parte di quei paesi che non vogliono sentir parlare di redistribuzione e salvataggio di migranti, se vi fosse un'attività di calamita, un'operazione, un effetto pull factor, come viene chiamato dagli analisti, cioè la presenza di navi che attira più partenze, in quel preciso istante la missione stessa si ritirerebbe. Questi più o meno sono i cardini sui quali si muoverà la nuova missione Sofia. Le date: 20 marzo scade la vecchia Sofia, il 23 marzo sempre a Bruxelles c'è una nuova riunione dei ministri degli esteri e della difesa per andare a definire i dettagli, con il rischio che vi sia un lasso di tempo tra la scadenza della vecchia Sofia e la nuova missione di monitoraggio piuttosto lungo. E che cosa faranno gli attori esterni in quel momento in cui nessuno pattuglia il Mediterraneo? Penso alla Turchia, penso alla Russia, all'Egitto, agli Emirati Arabi, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, fatemi andare immediatamente a Bruxelles, lì dove si è deciso. È un segnale politico forte, questo indubbiamente, al di là delle nevralgie che ho appena sottolineato. Lo facciamo con Jacopo Barigazzi, politico.eu. Jacopo, buongiorno, ben ritrovato. Buongiorno, grazie a voi, grazie. Allora, una lunga gestazione per approvare su carta la nuova missione. C'è stato, cos'è stato, Jacopo? Possiamo chiamarlo un sussulto europeo. Finalmente si vede l'ombra di una politica estera sulla Libia. Ma diciamo che ieri si è vista una volontà di agire che andava al di là delle più rose aspettative, nel senso che, l'ha detto lo stesso Borrell in conferenza stampa, nessuno ieri mattina ha pensato che ci fossero veramente gli elementi per un accordo. Dopodiché possiamo vedere botte piena, botte vuota. In realtà c'era già stato un accordo un mese prima, no? Sì. Per il rilancio di Sofia. E quel accordo lì è fallito per via dell'opposizione austriaca, un'opposizione che fa ridere, nel senso di un paese senza mare, senza marina, però contemporaneamente più che sufficiente e fra l'altro anche contraddittoria, perché l'Austria ha un programma di governo dove si chiede che la politica estera non sia all'unanimità ma sia invece basata su voti e maggioranza, quindi era veramente una posizione difficile per gli austriaci da tenere. E questo a livello del PSC, italiano il COPS, che è il comitato dove si riuniscono gli ambasciatori che si occupano di difesa, e fino a martedì e soprattutto l'Austria. Poi mercoledì invece in Coreper, che invece sono gli ambasciatori più politici, anche l'ambasciatore ungherese si aggiunge al coro e dice, Giorgio Coro si aggiunge all'Austria, sì. E dice, ah, durante l'impero le cose che avevamo in comune erano l'impero austro-ungarico, erano le finanze e la politica estera. Sì. Quella cosa lì fa sembrare di una scorsa che appunto a questo punto perché c'è bisogno di unanimità non si riesca ad andare da nessuna parte. Cosa che avrebbe mandato un messaggio devastante sia ad Ankara che a Mosca che a Washington. A quel punto lì, ieri è venuto fuori questo sussulto che è ancora tutto da vedere in chiave tecnica, nel senso certo. Che finché non c'è, allora chi stabilisce il pull factor? Quale sarà la percentuale che determinerà un pull factor? Certo. Quanti sono le persone? E poi Di Maio, in Italia queste cose sono raccontate in un certo modo perché l'Italia ha bisogno di far vedere che sta rientrando nella partita, quindi c'erano titoli sui giornali italiani, sì. Anche nelle settimane scorse, no? Sì. Le truppe, ecco, di queste robe qua praticamente non se ne parla. Sono cose molto appunto perché l'Italia farnesina ha bisogno di far vedere che si torna in partita, eccetera, eccetera. In realtà appunto di ste truppe ne ha parlato ieri solo Di Maio, come solo Di Maio ha detto che la missione si blocca. In realtà se tu guardi sia quello che ha detto Borrell sia i punti politici che sono stati dell'accordo che sono stati distribuiti ieri nel pomeriggio, non è che si blocchi, viene spostata. Che è una cosa ben diversa. Quindi, Jacopo, perdonami, non ci sarebbe quel periodo di latenza a cui facevo riferimento io prima, ci potrebbe essere una continuità. No, quando lui dice, quando nel caso stiamo parlando del fatto che c'è della parte dell'accordo politico di ieri che dice in caso di pull factor cosa succede, parlando di quella parte dell'accordo. E ieri Di Maio dice in caso di pull factor la missione si blocca, in realtà non si blocca, le navi vengono spostate da un'altra parte. Si ritirano sostanzialmente. Si vengono messi in un altro punto. Quale sia questo punto, capisci che è una decisione che aspetterà il comitato militare insieme certo. alle rappresentanze politiche, ma non è che si blocchi, perché se dici si blocca, allora a quel punto lì a un Haftar basta mandare 10 migranti e l'Europa si ritira. Certo. Per cui insomma era un po' troppo. Ecco. Per cui in quel caso lì appunto c'è un altro redeployment, cioè vengono messe in un altro punto. La cosa che fa ben sperare gli italiani è che lì c'è già una missione NATO operativa nell'est, sull'est, nella parte di Bengasi, la parte est delle coste libiche, che ha delle regole che sono le regole della nave di bandiera, cioè se tu prendi i migranti devi portare la nave che riprende e portarli nel proprio paese. Sì. Se tu chiedi a quelli della NATO quando casi che ci sono stati, gli dicono che praticamente non ne hanno. Perché insomma lì di immigrazione non, certo, ce n'è. Non ci sono partenze. Quindi, da quel lato della linea. Fino adesso no, dopodiché capisci che appunto se la metti giù in termini sbagliati rischi di fornire ad Haftar un'arma di ricatto formidabile, peraltro l'abbiamo già vista, no? Questa storia, esatto. Sì. Esatto. Quindi questi insomma sono i passaggi. La cosa che sicuramente ieri viene fuori come elemento che non si era appunto visto fino adesso è che forse perché con questo processo in mano a Berlino, no? E Berlino, il processo in Libia, e Berlino è riuscito a fare due cose: uno, a riportare il processo politico sulla Libia in Europa, perché il rischio che sarebbe stato a Mosca, e invece è riuscito, grazie insomma, a riportarlo in Europa. Il secondo è che adesso gli italiani e i francesi non sono più così apertamente a cacciarsi le dita negli occhi, lo fanno ancora ma in maniera molto più insomma sotto, non più, la divisione lì non è più così manifesta. Quindi qua c'è un'occasione di tornare ad essere, ad avere un ruolo in qualche modo nel giardino di casa, e questa occasione chi si prendeva la responsabilità veramente di dire no, l'Europa non riesce a giocare neanche nel giardino di casa? Austriaci e gli ungheresi avrebbero dovuto a quel punto giustificare, mettere la faccia su questa roba di giustificare, sarebbe stato non avendo mare. Non avendo mare. Un paradosso sublime, veramente. Va bene la loro battaglia all'interno del Partito Popolare, la battaglia di Kurz e di Orban per spostare il Partito Popolare di cui fanno parte a destra su migrazione. Lo capiamo, quel punto lì va bene, è chiaro. Però usare in questo modo la politica estera europea per questo era un po' troppo. Assolutamente. Per cui, appunto, si è trovata questa soluzione, che è una soluzione appunto ancora tutta da vedere, nel senso che finché non c'è un meccanismo di redistribuzione dei migranti è difficile, perché non c'è una visione unitaria da parte dell'Europa. Su questo non ci dubbe. Io ringrazio Jacopo Barigazzi, ti fermo qua perché abbiamo una lunga serie di ospiti con cui affrontare tanti lati di questa faccenda davvero complessa ed è in divenire. Jacopo Barigazzi, lo ricordo, reporter politico di politico.eu da Bruxelles, ci ha svelato un po' di retroscena e quelle informazioni di corridoio, lo dico ovviamente in maniera virtuosa, che ci aiutano meglio a capire anche questa questione. Grazie mille Jacopo, alla prossima, buon lavoro. Grazie a voi. Ciao. 349-238-6666, gli ascoltatori, l'iniziativa prevede anche una no-fly zone o controlli aerei. Ho letto di rifornimenti aerei russi e emiratini ben più spesso di quelli navali. Non c'è al momento, dalle carte che abbiamo letto, una no-fly zone ed è uno, ahinoi, dei tanti punti vulnerabili probabilmente di questo accordo, che è tutto da vedere. Attenzione, è su carta, lo dicevo, paradossalmente si chiama non-paper tecnicamente, vedremo come verrà concretizzato. Proviamo a analizzare un po' i punti di debolezza ma anche i punti di forza. Il punto di forza è assolutamente quello politico. Per la prima volta l'Europa, giusto ieri facevamo una puntata, no? Westlessness, non c'è più l'Occidente indebolito, non si tira sulle maniche con il disimpegno statunitense. Ecco, c'è stato il giorno dopo un incredibile rigurgito, quantomeno politico. Finalmente l'Unione Europea decide di mettere le mani nella sabbia libica. Buongiorno e ben ritrovato a Nessun Luogo è Lontano al generale Vincenzo Camporini, ex capo di Stato Maggiore della Difesa, adesso è consigliere scientifico di IAI, Istituto Affari Internazionali, nostro gradito ospite di Sovente. Generale, buongiorno, ben ritrovato. Buongiorno a chi ci ascolta. Allora, davamo la notizia, in realtà più che notizia è un mistero, questa nave turca con munizioni per Serraj, forse è stata colpita solo la banchina, un deposito, le informazioni sono per ora contraddittorie. Cambierebbe lo scenario, secondo lei, generale, se fosse stata colpita una nave turca che stava rifornendo miliziani siriani e turchi chiamati da al-Serraj in uno stato sovrano e riconosciuto dall'ONU? Cambierebbe nulla, cambierebbe la sostanza, nel senso che si fa un passo in più in questa vicenda. Generale, la sentiamo malissimo, proviamo a recuperare la linea, che sia un pochino migliore, che ci supporti meglio. Torno ai vostri messaggi al 349-238-6666, vediamo, ci sono un po' di ascoltatori che si soffermano in particolare su quella che è l'aspetto dei migranti, che è uno dei pezzi, attenzione, perché non è la missione precipua della nuova Sofia, perché da umanitaria diventa militare, quindi L'obiettivo principale è fermare, far rispettare l'embargo di armi, ma anche il contrabbando di petrolio, per altri numeri che vi abbiamo dato e vi diamo quotidianamente sul termometro internazionale. I più attenti avranno notato che oscillano queste date di capacità di stoccaggio dei vari terminal. Una delle ipotesi che alcuni analisti da noi interpellati sussurrano è che Haftar abbia trovato un modo per fare contrabbando di petrolio, sempre in barba ai vari embarghi, perché sapete che Haftar deve comunque fare riferimento alla compagnia petrolifera nazionale, così come alla Banca Nazionale Libica. In sostanza, cosa che è già successa in passato, peraltro, sono stati beccati dei cargo nelle zone delle acque maltesi. Probabilmente Haftar sta cercando dei modi per contrabbandare il petrolio. Un ascoltatore, capitolo redistribuzione, arrivo in Italia, distribuzione nei paesi europei in attesa di visto per asilo, se non è concesso asilo vengono rimandati nel paese di approdo, cioè l'Italia. Qua punta il dito su uno di quelli che è i punti forse più fragili, più sensibili di tutta questa discussione sul ricollocamento dei migranti. Vi faccio notare che le tre ipotesi allo studio al momento sono: se le navi militari della nuova missione Sofia dovessero salvare dei migranti, o si fa porti a rotazione, cosa che la Francia assolutamente non vuole, o, come è già stato avvocato da Jacopo Barigazzi, la bandiera battuta dalla nave indica lo Stato che si dovrà far carico, oppure quote, e anche lì insomma si ritorna nel solito caos europeo. Torniamo al generale Vincenzo Camporini, vediamo se la linea ci supporta, cambia lo scenario. Che cosa significa, generale, questo attacco, se confermato? Lo scenario non cambia, semplicemente si sta proseguendo lungo una strada, facendo un passo in più in questa escalation che purtroppo sembra non avere fine, e con le posizioni diplomatiche che in qualche modo sono più consapevoli di prima di quello che sta accadendo, cosa che purtroppo fino a qualche giorno fa non accadeva, sì. Ma senza delle azioni che possano effettivamente cambiare lo scenario, anche le decisioni che sarebbero state prese, qui stiamo parlando di un non paper, quindi sì, di una ipotesi che deve essere poi concretizzata con tutta una serie di ulteriori decisioni, in realtà ha un aspetto più formale che altro. Stiamo parlando di bloccare i fornimenti di armamenti ai contendenti, sì. Ma queste non arrivano mica solo via mare, anzi c'è un confine sconfinato, scusate la dichiarazione, c'è un confine enorme che viene assolutamente diventa assolutamente permeabile per far passare dei fornimenti, si passano le divisioni corazzate attraverso i confini della Libia terrestri, di aerea può arrivare qualsiasi cosa, ci sono dei velivoli particolari capaci, particolarmente grandi, che possono portare dei fornimenti molto cospicui. Sì. Il blocco navale è un aspetto positivo dal punto di vista politico, dal punto di vista pratico non fa altro che spostare le direttrici di movimento su altri mezzi. Generale Camporini, stia con noi, andiamo a sentire l'informazione finanziaria, poi l'ultima domanda per lei. Nessun luogo è lontano. Ancora buona giornata e ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori in questa puntata di Nessun Luogo è Lontano. Parliamo della vecchia Sofia, l'operazione militare che doveva monitorare quello che accadeva di fronte alla Libia. Cambierà nome, Operation EU Active Surveillance, potremmo tradurla con sorveglianza attiva, mettiamola così. I tempi sono stretti, il 20 marzo sostanzialmente decade quella vecchia, il 23 marzo a Bruxelles nuova riunione per concretizzare quella nuova. Col generale Vincenzo Camporini stavamo cercando di passare in rassegna un po' i punti deboli. Innanzitutto ha sottolineato in maniera molto efficace, come sempre il generale, che ci sono tanti confini, non solo quello aereo e quello navale, ma quello terrestre, e lì abbiamo visto che passano armi e rifornimenti. Un ultimo punto, brevemente, se può, generare: le regole di ingaggio sono rilevanti in questo senso? Io immaginavo uno scenario del tipo blocco navale per far rispettare l'embargo, arriva una nave turca, la quale nave turca, come ci ha dimostrato in altri casi, guardiamo l'esempio di Cipro per esempio, tira dritto. Che cosa faranno le navi della nuova Sofia? Non possono fare altro che farla passare. Cioè in questa situazione in cui non esiste un mandato delle Nazioni Unite per un blocco navale secondo i criteri diciamo più forti, è chiaro che ci deve essere la cooperazione da parte del comandante della nave che viene intercettata. Se il comandante non si ferma, non lo si può costringere a fermarsi. E quindi diciamo che diventa un fatto di buona volontà politica, di buona volontà politica che ha delle conseguenze, perché è chiaro che un paese le cui navi non si fermano, a questo punto si mette in contrasto con la comunità internazionale. Però non credo che questo preoccupi molto certi personaggi. Certo, chiarissimo. Grazie mille al generale Vincenzo Camporini per essere stato con noi. Buona giornata e buon lavoro. Sostanzialmente, almeno in primis, un forte segnale politico. L'Europa si prende carico, lo dicevo, di sporcarsi, evidentemente in senso buono, le mani sulla sabbia libica, mette la quarta, esce questa dichiarazione, questa comunione di intenti che va a superare una serie di veti incrociati. Come però concretizzarla in maniera pratica, appunto, e per far rispettare quel embargo? Buongiorno e ben ritrovato nel suo luogo lontano anche a Mario Di Stefano, sottosegretario agli esteri. Di Stefano, buongiorno. Buongiorno a voi, grazie per l'invito. Grazie a lei per essere con noi e per il suo tempo. Abbiamo cercato di illuminare un po' quelle che sono i vulnus, le nevralgie a nostro parere, però sottolineando anche dal punto di vista politico potrebbe essere un inizio, diciamo, di un successo. Quantomeno avete convinto l'Europa a occuparsi in maniera più attiva della Libia. Puntate a una nuova guida italiana dopo quello che è già avvenuto per la vecchia Sofia, diciamo. Beh, sicuramente sarebbe il riconoscimento sia della nostra capacità di presenza storica in Libia e quindi la nostra conoscenza del territorio e chiaramente degli interlocutori, ma anche del lavoro fatto oggi, non soltanto storicamente, perché questa missione nuova, che speriamo possa partire più presto, è frutto del lavoro intenso specialmente del ministro Di Maio. Sì. Quindi è un ruolo molto italiano e speriamo che questa cosa ci sia riconosciuta. Sì. Sottosegretario Di Stefano, come avete fatto a superare i veti soprattutto di Austria e Ungheria, che soprattutto sul dossier migratorio hanno sempre messo i bastoni fra le ruote anche a intenti più europei, diciamo? Beh, questo è da chiarire anche agli ascoltatori. La missione nuova, che prevede appunto il pattugliamento di mare e eventualmente venisse approvato anche terra, prevede il pattugliamento a est, quindi nelle rotte delle armi. E le rotte dei migranti per lo più sono nella parte a ovest, verso Tripoli. E quella zona non verrà pattugliata perché non c'è traffico di armi in quella zona e quindi le due cose vengono slegate. Sì. E probabilmente questa è anche la tessera che ha fatto chiudere il puzzle anche per quei paesi che non hanno più resti. Sì, perché diciamo che si palesava un timore fortissimo da parte di Austria e Ungheria, soprattutto nel caso in cui le navi avessero raccolto migranti il cosiddetto pull factor, ecco, che condividiamo anche noi, perché in effetti la missione Sofia ha avuto in passato, ed è il motivo per il quale l'abbiamo voluta interrompere per aprire questa nuova missione, questo problema anche del fatto che a volte ha, diciamo, non volontariamente, ma agito la pull factor. E in realtà, sottosegretario Di Stefano, su questa presenza del pull factor si sono spesi tanti analisti, abbiamo anche riguardato i numeri. Lo stesso Borrell, responsabile della politica estera dell'Unione Europea, ha sostanzialmente detto che dal 2012 in poi nessuna presenza navale crea un pull factor, cioè le partenze dipendono da altri fattori, per esempio quello climatico, il comportamento dei trafficanti. No, quello sicuramente, però è chiaro che nel momento in cui le navi militari si muovono a ridosso delle coste ci può essere chiaramente la tentazione da parte degli scafisti di facilitarsi la vita scaricando i migranti a ridosso delle tratte delle navi, quindi non un pull factor, diciamo, sui migranti stessi, sulle persone, ma sulla rete degli scafisti che li sfrutta, purtroppo. Cioè lei dice non tanto sui numeri, perché a vedere i numeri di fatto si rischia di facilitare gli scafisti sostanzialmente. Poi sui numeri io sono totalmente d'accordo con voi. I numeri che stiamo analizzando in quest'ultimo anno, in realtà in generale in questi ultimi anni, sono numeri totalmente gestibili e in calo costante, quindi non c'è una preoccupazione forte da questo punto di vista. Sì. C'è un principio molto più ampio, di respiro più ampio, legato alla Libia, che è la stabilizzazione, quindi la missione serve proprio a evitare che arrivino in Libia le armi con le quali poi combattono. Certo. Avrà letto, avrà, non so se ha avuto modo di sentire l'inizio di questa trasmissione, davamo notizia, ma come giallo, c'è un punto di domanda, è stato bombardato il porto di Tripoli. Questa sembra essere l'unica notizia, come dire, confermata da più fonti. Almeno Reuters ha sentito le autorità portuali. Avrebbe colpito l'artiglieria del generale Haftar un deposito, forse una banchina, mentre Al-Arabiya, però, come dire, con tutti i distinguo, sapendo da che zona trasmette, diciamo, e che intenzioni politiche ha, dice, riprendendo anche fonti di Haftar, è stato colpito un cargo turco che trasportava armi. Non è che questa missione Sofia, tutta incentrata sulla Cirenaica, come dire, va a bloccare un lato dell'armamento, ma in realtà, diciamo, l'embargo poi viene violato a Tripoli in questo modo? Chiaramente il nostro interesse è bloccare tutte le armi che arrivano, quindi noi faremo in modo di avere garanzie da tutti i protagonisti, diciamo, dello scenario libico. Con i turchi abbiamo ingaggiato un discorso preciso e puntuale già da tempo. Loro, come anche dall'altra parte gli emiratini, sostengono di agire di risposta all'altra parte ogni volta. Sì. Chiaro che una missione europea può dare a entrambi a questo punto un segnale di attenzione maggiore e quindi magari portare a una stabilizzazione più concreta. È chiaro che non si risolve la cosa dall'oggi al domani, certo. Ci vuole la volontà politica dei paesi, certo, che stanno fornendo le armi, e la missione europea però può fare anche questo. Quando però ci sarà il controllo anche a terra, e con la missione che appunto è a terra e non soltanto in mare, quindi con l'ok delle due parti in lotta, allora sarà ancora più efficace. Ecco, la missione a terra, questo mi sembra uno dei punti forse fondamentali, perché anche il nostro ospite precedente, il generale Camporini, diceva attenzione perché un blocco aeronavale potrebbe non essere sufficiente. Sottosegretario, le chiedo un minuto di pazienza, andiamo a sentire a proposito di strade, la viabilità, e poi proviamo a ragionare su quella che potrebbe essere l'efficacia di, come dicono gli analisti, boots on the ground. Nessun luogo è lontano. Ancora ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori, una puntata di Nessun Luogo Lontano tutta dedicata alla crisi libica, il segnale politico forte che arriva dall'Europa, una nuova missione Sofia che potrebbe prendere corpo nelle prossime settimane. C'è sullo sfondo anche la possibilità di un intervento di militari sotto cappello dell'Unione Europea in territorio libico, e sarebbe una novità dal 2011, da quando è caduto Muammar Gheddafi, quello scoperchiamento del vaso di Pandora, come è stato detto da alcuni. Col sottosegretario Mario Di Stefano, sottosegretario agli esteri, volevo toccare quest'ultimo punto. Sottosegretario, allora, se ho ben capito, leggendo questo non paper, come dicevo prima, le condizioni per avere truppe a terra sono o una risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, o un cessate il fuoco, oppure l'invito da parte dei libici. È giusto o mi sto sbagliando? Sì, è chiaro che comunque passa dal benestare dei libici, qualunque sia lo scenario. Europa e Consiglio di Sicurezza sono abbastanza allineate già, l'Unione Europea ha avuto mandato già dalle Nazioni Unite in tal senso, quindi il punto ora determinante, lo leggete infatti anche nelle dichiarazioni della conferenza stampa del Ministro Di Maio oggi, sì, è avere l'approvazione dei libici. Chiaramente sì, noi abbiamo l'interesse ad aiutare la Libia in questo momento, ma non faremo mai lo stesso errore che hanno fatto i francesi nel 2011 con una missione in Libia non voluta da nessuno, sì, e quindi chiaramente dobbiamo rimetterci a loro. Sì. Intanto do il mio benvenuto e ben ritrovato nel suo luogo lontano anche Arturo Varvelli, direttore dell'European Council of Foreign Relations di Roma. Arturo, buongiorno, ben ritrovato. Buon pomeriggio a voi. Grazie. Allora, Arturo, aiutami, supportami in questa visione che forse è un pochettino errata, correggimi se sbaglio, sei un profondo conoscitore delle dinamiche libiche. Stiamo assistendo a una missione europea che si concentra più a est, sulla Cirenaica, lascia per così dire scoperta la parte di ovest di Tripoli, affidandosi in sostanza, per il rispetto dell'embargo che dovrebbe essere totale, a una buona volontà di Erdogan, della Turchia, che però per il momento continua ad andare a mandare armi. Mi conforti se vedo una asimmetria, diciamo, nel comportamento europeo nel gestire le due anime libiche? Sì, è vero, c'è un'asimmetria, risposta a questa è dovuta al fatto che l'Unione Europea agisce per compromessi. È chiaro che questo è frutto di un compromesso. Intendiamoci, il giudizio che do di questa iniziativa è positivo, è complessivamente positivo, perché sì, mi pare che, come dire, finalmente la questione venga portata in casa in Europa. E mi pare che tutto sommato tutti questi esercizi servano, siano propedeutici a una serie di azioni dello che l'Unione Europea può compiere. Detto ciò, bisogna tenere presente che andare a mettere le navi solamente da una parte e limitare tutta l'azione solamente al controllo navale è qualcosa che può avere solamente, nella migliore delle ipotesi, un parziale successo. E questo perché? Perché naturalmente lascia in gran parte libertà di azione agli sponsor, ai padrini di Haftar, che sono emiratini ed egiziani, ma più sì, di tutti gli emiratini in questo periodo, sì, quindi gli emiratini fanno dei ponti aerei e li portano direttamente gli strumenti bellici ad Haftar e nessuno può intervenire, punto di domanda, mentre dall'altra parte si infastidiscono, io direi anche giustamente, le navi turche che portano rifornimenti al governo di Sarraj, però lo si mette in questa maniera in una condizione ancora di maggiore difficoltà rispetto ad Haftar, che invece può continuare a rifornirsi. Quindi questo è assolutamente uno dei temi che dovrà essere tenuto presente. Mi pare che non sia ancora nulla di definitivo, cioè sì, si sia trovato una sorta di primo accordo sul quale poi discutere. Io penso che sia esigenza e necessità dell'Italia far sì che questa missione sia il più credibile possibile, altrimenti non solo bruciamo, come dire, un ruolo italiano, ma bruciamo anche un ruolo europeo, che è un contenitore importante in questo momento per, certo, per l'Italia. E la credibilità viene data dall'efficacia di controllo degli arrivi delle armi da ambo i lati. Poi sappiamo benissimo, come diceva Camporini, che sono riuscito a sentire prima, sì, che nessuno potrà impedire a Erdogan o a chi per esso di portare le armi direttamente, di portare questo blocco, perché di blocco non si tratta sostanzialmente, sì, però questa azione permette ad esempio un potere di denuncia che è importante e che può avere delle conseguenze sanzionatorie a livello di Nazioni Unite, ad esempio. Sì, chiarissimo, insomma una valenza soprattutto politica, una nave turca per esempio, sì, che vada a violare un confine, oppure gli emiratini che si fanno beccare con le mani nella marmellata, perdonatemi l'espressione forse troppo prosaica vista la drammaticità del teatro, avrebbe una rilevanza, un'esposizione anche mediatica internazionale immediatamente. Quindi sottosegretario Di Stefano, l'ultima domanda e poi la lascio al suo lavoro. L'Italia continua ad appoggiare quella che è l'addestramento della Guardia Costiera Libica. Da più voci però si è detto questa non è un vero Guardia Coste, non ha la competenza, non ha la preparazione, c'è una strana commistione tra milizie, Guardia Costiera, i centri di detenzione eccetera. Non sarebbe il caso anche di fare chiarezza su questo punto? Un memorandum di cui tanto si parla in questi giorni, il memorandum esiste tra l'Italia e la Libia, noi abbiamo già detto che il nostro interesse è di aggiornarlo, abbiamo già mandato una proposta italiana di aggiornamento, includendo maggiori riflessioni, diciamo, sulla parte del rispetto del diritto umano internazionale e della gestione appunto dei profughi che vengono ripescati in mare dalla Guardia Costiera. È altrettanto vero che è un accordo che ad oggi a noi serve e che l'addestramento della Guardia Costiera serve altrettanto, e ovviamente lo facciamo con la Guardia Costiera che c'è a disposizione, non ci possiamo inventarne una nuova, voglio dire. Chiaramente l'Italia ha sempre giocato una partita molto importante dal punto di vista anche del training in Libia, e questo compito non ce lo possiamo certamente scrollare di dosso. Poi io condivido le preoccupazioni, perché i report sono evidenti, ci sono delle violazioni importanti, sì, dei vari diritti, ma è altrettanto vero che non è che facendo finta che invece non ci sia il problema si risolvono le cose. È meglio avere i nostri uomini lì che non averli, dal mio punto di vista. Ci può dire un'ultima cosa velocissimamente, se può, sui tempi? E ha fiducia sul fatto che il 23 si concretizzeranno anche i dettagli di questa nuova missione e quindi sarà operativa immediatamente? E faccio riferimento alla provocazione di Arturo Varvelli, evidentemente, no? C'è in gioco anche la credibilità della politica estera italiana, che si fa motore di questa sussulto europeo sulla Libia, finalmente, dicono in tanti. Sulla tempistica è fiducioso? Io spero di sì, perché ieri nessuno ci avrebbe scommesso, eppure si è trovato un accordo abbastanza ampio e in tempi rapidi. Quindi credo che ci sia una consapevolezza di tutti i paesi europei e questo possa portare a tempi più brevi. Grazie mille al sottosegretario agli esteri Mario Di Stefano, buona giornata e buon lavoro. Grazie sottosegretario. Allora, 349-238-6666 con Arturo Varvelli, che è sempre con me, mi ha aiutato in qualche modo a cercare di fotografare dal punto di vista un pochino più strategico quella che è una mossa politicamente importante, non c'è dubbio, ma che presenta delle lacune, delle nevralgie. Vedremo, Arturo, come si concretizzerà. Ci sono un po' di ascoltatori al 349-238-6666 che... I nostri ascoltatori sono molto attenti, devo dire, fanno riferimento al confine terrestre con l'Egitto, fanno riferimento al confine sud della Libia, parlano di Niger, di trafficanti di armi e non solo, insomma mettono in luce la porosità dei confini di quella zona del quadrante. Secondo te, Arturo Varvelli, qual è la vera grande sfida al momento? È più parlare con Erdogan, il sottosegretario ha fatto riferimento a una serie di trattative per, come dire, per cercare di convincere Erdogan a non passare un segno, a dimostrare buona volontà politica, o a convincere Sarraj a farci invitare a mettere i piedi sulla Libia? Ma io penso che nessuna delle due sia più importante di una terza ipotesi, scusami Giampaolo, terza ipotesi è quella di fermare il fronte haftariano, cioè qui siamo davanti a una guerra di aggressione da parte di un attore rispetto a un altro, e qua la comunità internazionale non l'ha ancora mai denunciato onestamente, quindi come possiamo pensare di riuscire a pacificare un'area se non denunciamo l'aggressore? Quindi l'aggressore e chi sostiene l'aggressore, in questo caso lo ridico, Emirati Arabi e Egitto, sono sostanzialmente gli artefici di questo conflitto. I turchi sono stati molto furbi, ne hanno approfittato perché si è creato un vuoto dalla parte di Tripoli, un governo voluto dalle Nazioni Unite, e si sono infiltrati, come dire, supportandolo. Sono stati chiamati peraltro dagli stessi tripolini, dallo stesso governo di unità nazionale. È stato un bel autoinvito, no, Arturo Varvelli? Notevole, devo dire. E poi hanno autosiglato un accordo sulle acque territoriali che è molto fastidioso per noi. Quindi siamo noi che ci siamo in qualche maniera trincerati dietro una sorta di equidistanza che non è stato per nulla produttiva. Se vogliamo essere equidistanti dobbiamo tirare quattro mazzate politiche, simboliche a Erdogan, ma lo dobbiamo fare in egual misura anche sull'altro fronte. E con questo plastico messaggio di Arturo Varvelli, dirige l'European Council of Foreign Relations a Roma, io vi lascio. Grazie mille Arturo Varvelli per essere stato con noi. Buona giornata, buon lavoro. La mazzata della Frisani suona così. Sì, perché eravamo in ritardo di qualche secondo. Grazie mille a voi per l'ascolto, a tutta la squadra di Nessun Luogo. Appuntamento domani, ore 16. Buona giornata.